GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il Sole 24 Ore mette in dubbio i finanziamenti per la cabinovia di Trieste, ma Regione e Comune smentiscono. I soldi del PNRR arriveranno perché non ci sono ritardi. Nel settore terziario crescono fiducia e ricavi. Un'impresa su quattro chiede credito per investire. Confcommercio regionale, il turismo vola, le criticità sono l'aumento dei prezzi e l'impennata dei tassi. La procura di Pordenone ha chiesto il fallimento del Pordenone Calcio. Troppo grave la situazione debitoria. L'ultimo bilancio parla di una perdita di esercizio di 6.756.000 euro. Nuovo rinvio del processo per il crollo della piscina acquamarina avvenuto nel luglio 2019 a Trieste. Al giudice Camillo Poilucci subentrerà nel procedimento Giorgio Nicoli. Nuova udienza il 17 luglio. Presentato in prefettura a Trieste un programma di cooperazione tra Vigili del Fuoco e Acegas APS AMGA. Obiettivo: salvaguardare la sicurezza del territorio e degli operatori che intervengono in situazioni di emergenza. Negli ultimi 6 anni l'Italia ha perso il 15% dei volontari. In regione la situazione è migliore, ma la tendenza preoccupa. Tra le cause, una crisi di valori e la paura delle responsabilità. Il Piccolo Opera Festival guarda al futuro e a Go 2025. L'appuntamento è sul Collio Berda e nel Goriziano tra il 21 giugno e il 16 luglio con 16 appuntamenti. Oggi la presentazione del cartellone. Le 12.31, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina ed Eva Ciuc. La cabinovia di Trieste, uno dei progetti più discussi degli ultimi anni a Trieste, potrebbe rischiare il taglio dei fondi del PNRR. Secondo il quotidiano economico Il Sole 24 Ore, questo e altri finanziamenti per il settore delle infrastrutture sarebbero a rischio. Regione e Comune però smentiscono. Non trova per ora conferme né a livello romano né a livello locale l'ipotesi che siano cancellati i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, oltre 60 milioni, che servono a finanziare la costruzione della cabinovia di Trieste. Di questa possibilità parla il quotidiano economico Il Sole 24 Ore in una pagina in cui si dà conto della richiesta del Ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto agli altri ministeri di fornire già oggi una lista di progetti che non possono essere completati entro il 2026. Bruxelles infatti eroga i soldi del PNRR a patto che le opere siano realizzate entro quella scadenza. Dal Ministero degli Affari Europei ci confermano che la valutazione non è sul merito dei progetti, ma sul rispetto dei tempi, aspetto su cui il Comune ostenta una certa sicurezza. L'assessore Evers Bertoli, che segue da vicino il dossier, si dice sorpreso più che preoccupato perché le tempistiche sono state rispettate pienamente e la gara è stata già aggiudicata. Anche dalla presidenza della regione fanno sapere che non risulta questo possibile taglio. Abbandonare l'opera significherebbe peraltro pagare penali all'azienda che sta preparando il progetto esecutivo, la Leitner. Giusto ieri i dipendenti dell'impresa Alto Tesina sono tornati in Friuli Venezia Giulia per un nuovo incontro tecnico, mentre il complesso iter autorizzativo va avanti. La conferenza dei servizi tra tutti i soggetti che devono esprimersi sull'opera è iniziata e potrebbero esserci novità nel giro di poche settimane. Il Comune tiene spinto l'acceleratore e immagina l'avvio dei cantieri per il prossimo gennaio. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. In controtendenza rispetto al dato nazionale, in Friuli Venezia Giulia migliora il saldo tra le imprese nuove nate e imprese che chiudono nel settore terziario, più 36%. Nel primo trimestre del 2023 migliora anche la fiducia nell'andamento dell'economia. Questi alcuni dei dati presentati oggi da Confcommercio Friuli Venezia Giulia. I dettagli nel servizio. Ci sono sempre più imprese del terziario che chiudono rispetto a quelle che aprono. Tuttavia, se in tutta Italia cresce il numero di quelle che abbassano la saracinesca, in Friuli Venezia Giulia l'andamento è di segno opposto e le cessazioni di attività diminuiscono. La fotografia trimestrale arriva dall'osservatorio curato per Confcommercio regionale dall'Istituto di ricerca Format Research, basato su un campione di oltre 1.500 imprese tra commercio, turismo e servizi. Migliora la fiducia nell'andamento della propria attività, ma anche l'indice dei ricavi, con il turismo a fare da locomotiva. L'assessore Sergio Midiobini ha parlato di Friuli Venezia Giulia come isola felice tra le regioni italiane. Le note dolenti arrivano in primis dall'inflazione. Pierluigi Ascani, direttore scientifico di Format Research. Di fatto le imprese del terziario stanno incorporando gran parte dell'aumento dei prezzi che subiscono, ma in questo incorporare l'aumento dei prezzi di fatto riducono i propri margini. Diminuiscono le imprese che hanno chiesto credito nei primi 3 mesi dell'anno o che hanno ricevuto interamente il credito del quale avevano bisogno. Il 59% lo fa per esigenze di liquidità, il 26% per fare investimenti. Di soldi, insomma, se ne prestano meno e a costi molto maggiori che in passato. Un terzo del campione statistico ha scelto di affidarsi ai confidi, soprattutto per cifre che vanno dai 50 ai 200 mila euro. Giovanni Da Pozzo, presidente regionale di Confcommercio. Strumento validissimo che sono i confidi, che danno loro stessi attraverso i loro sistemi patrimoniali una garanzia alla banca affinché l'impresa possa accedere a quel credito che necessita. Tra i desiderata delle imprese, il potenziamento dei microfinanziamenti fino a 30.000 euro. Una su tre nell'ultimo biennio ha ricercato nuovo personale, più della metà ha avuto qualcuna o molte difficoltà, soprattutto a trovare addetti con le competenze ricercate. Il non trovarne provoca una riduzione media in termini di ricavi del 18%. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il procuratore della Repubblica di Pordenone conferma le voci da qualche tempo in circolazione sul possibile fallimento del Pordenone Calcio. È stata presentata una richiesta in questo senso e anche se ci fosse una promozione in Serie B la situazione non cambierebbe. Sono rimasto scioccato da questo titolo sul fallimento del Pordenone nel momento in cui potrebbe ambire alla Serie B, una cosa che non mi aspettavo e mi dispiacerebbe che succedesse. Con l'istanza firmata dal procuratore della Repubblica Raffaele Tito e dalla sostituta Monica Carraturo, la magistratura ha chiesto il fallimento del Pordenone Calcio. Troppo grave la situazione debitoria. L'ultimo bilancio parla di una perdita d'esercizio di 6.756.000 euro, cresciuta di quasi 3 milioni rispetto al 2021 e di 7,6 milioni di debiti nei confronti del fisco e degli enti previdenziali. Un quadro pesante che anche un'eventuale promozione in Serie B non sanerebbe. Le voci giravano da un po' su una difficoltà, è ovvio che in mancanza di gente che ha supportato Mauro in questo è difficile perché i costi sono altissimi, soprattutto la categoria di Serie C, è sempre stata una categoria a perdere, non a guadagnare. Per l'onorevole Emanuele Loperfido questa potrebbe essere l'occasione per il Pordenone Calcio di trovare una cordata di imprenditori e di capitale fresco per supportare una nuova fase della società e superare questi scogli, dice, per il bene di Pordenone e di tutti i tifosi. L'udienza di verifica è fissata per il 20 giugno, sabato, la partita per i play-off di promozione. Intanto vediamo di far bella figura in campo, i giocatori sicuramente daranno il massimo come hanno sempre fatto, attendiamo fiduciosi. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Rinviata la prima udienza al Tribunale di Trieste per il caso della piscina, Acqua Marina è stata rinviata perché il giudice Camillo Poilucci ha dato le dimissioni per motivi non legati al caso della piscina. A sostituirlo nella prossima udienza, che si terrà il 17 luglio, sarà il giudice Giorgio Nicoli. Nuovo rinvio del processo per il crollo della piscina Acquamarina, avvenuto nel luglio del 2019. Al giudice Camillo Poilucci subentrerà nel procedimento il giudice Giorgio Nicoli. Nuova udienza il 17 luglio. A processo per il crollo del tetto della struttura, il progettista esecutivo e direttore dei lavori, il titolare dell'impresa incaricata della manutenzione della copertura e i due operai che stavano lavorando nel momento in cui la struttura è collassata. Si sono costituiti parte civile il Comune di Trieste e un'attività di estetica e massaggi all'interno dell'ex piscina. L'inchiesta comprendeva inizialmente 18 persone, poi lo scorso marzo il GUP Luigi Dainotti aveva rinviato a giudizio i 4 imputati. Intanto sono stati affidati i lavori per la demolizione. A vincere la gara di un appalto che gravita attorno agli 800.000 euro, la stessa impresa che era stata incaricata dell'abbattimento della sala Tripkovic. Entro giugno, spiega l'assessore comunale Elisa Lodi, dovrebbero partire i lavori, ovvero la demolizione delle rudere, lo sgombero delle macerie e la riasfaltatura dell'area. Poi la nuova piscina. Il comune di Trieste spiega che non ci sarà da parte dell'autorità portuale la concessione per il diritto di superficie dell'area, perciò la ricostruzione non avverrà con gli strumenti del partenariato pubblico-privato, ma con la classica gara d'appalto. Trieste, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. La pagina del tempo, il cielo è da nuvoloso a coperto sulla regione, le temperature registrate alle 11 a Trieste 23 gradi, Pordenone 20, Gorizia 19, Udine 16,5, Tarvisio 15, Tolmezzo 14, Forni di Sopra 13, Piancavallo e Sappada 10, Monte Lussari 8,5, Monte Zoncolan 7, Lignano e Grado 21,5. Le previsioni oggi pomeriggio, nuvolosità variabile, saranno probabili rovesci e temporali sparsi a più riprese nel corso della giornata, ma che in pianura saranno più frequenti al pomeriggio e in serata. Qualche temporale potrebbe essere localmente anche forte, specie sulle prealpi e sull'alta pianura, con piogge da abbondanti ad intense. Sulla costa sarà possibile tempo migliore, con bassa probabilità di pioggia, venti a regime di brezza, in tarda serata soffierà bora moderata sulla costa. Domani nella notte di primo mattino saranno possibili nuvolosità e piogge residue, specie sulle zone occidentali e nel Travisiano, con bora moderata sulla costa e sulle zone orientali. In giornata su pianura e costa cielo sereno, poco nuvoloso, da poco nuvoloso variabile sulla zona montana. La bora sulla costa sarà in attenuazione, con probabili venti a regime di brezza sulle zone occidentali. A pari merito con il collega dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, Massimiliano Fedriga si colloca al secondo posto tra i presidenti di regione più graditi, secondo un sondaggio eseguito tra marzo e maggio da SVG. Luca Zaia, presidente del Veneto, con il 69% dei consensi, è il più gradito. Il gradimento di Fedriga e Bonaccini conta pochi punti percentuali in meno e si attesta al 64%. All'ultimo posto Cristian Solinas, presidente della Regione Sardegna, con il 20%. Prefettura, Vigili del Fuoco e Acega stanno organizzando corsi di formazione e scambi tra i rispettivi dipendenti per prepararsi al meglio a possibili gravi emergenze come incendi boschivi in zone a rischio o in zone di stoccaggio di carburanti. Si è appena conclusa in prefettura una conferenza stampa di presentazione di un progetto per promuovere la cultura della sicurezza che vede il prefetto come capofila, Acega, SAPS, AMGA e Vigili del Fuoco in una collaborazione molto stretta in un'ottica di prevenzione. Sono tante le minacce che potenzialmente potrebbero creare delle emergenze, dei danni nella nostra regione con i cambiamenti climatici, poi ultimamente ne abbiamo viste veramente di tutti i colori, quindi è molto importante questo impegno e c'è qui con me il direttore di Acega SAPS AMGA, Roberto Gasparetto, che ci spiega in che modo l'agenzia, la CEGA SAPS AMGA, è impegnata in questo nuovo progetto di formazione. Sì, questo è un progetto importantissimo perché noi insieme con il Corpo dei Vigili del Fuoco, sotto la giurisdizione e il sostegno del prefetto, abbiamo avviato un po' timidamente nel tempo, ma adesso in maniera strutturale, abbiamo avviato un'attività di formazione congiunta con i nostri operatori, che operano nei settori della distribuzione dell'acqua, distribuzione gas, distribuzione elettrica, tutti i servizi di cui noi ci occupiamo, in modo tale da permettere che in caso di incidenti oppure in caso di, appunto, di situazioni indotte ad esempio dai cambiamenti climatici, gli operatori che intervengono sappiano dove intervenire, in che modo intervenire e soprattutto intervenire in condizioni di sicurezza. Questa è un'attività formativa che sarà fatta in aula e con sperimentazioni in campo, la faremo in epoca tranquilla, quindi quando non ci sono questi fenomeni, in modo tale che quando dovessero intervenire i fenomeni noi saremo in grado di gestire gli interventi. Questo permetterà alla comunità locale di avere maggiori garanzie di sicurezza dell'erogazione dei servizi, che avranno un aumento della continuità e soprattutto di essere sicuri che quando succedono queste cose le persone che intervengono in sicurezza, con un meccanismo di affidamento reciproco. L'esempio clamoroso l'abbiamo avuto già lo scorso anno con l'incendio nel Carso. La collaborazione che è scattata immediatamente tra noi e il Corpo dei Vigili del Fuoco ha evitato incidenti legati ad esempio alle nostre cabine del gas, ha evitato che venisse interrotta l'erogazione di acqua potabile che è servita per mantenere la città alimentata, ma per i Vigili del Fuoco anche di alimentare le autobotti. I cittadini non si sono accorti che, appunto, di questo rischio perché noi l'abbiamo prevenuto con questa attività. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Il volontariato è in crisi, cala il numero delle persone disposte a impegnarsi gratuitamente. Il quadro in Friuli Venezia Giulia. L'allarme parte dal comitato regionale delle 232 proloco del Friuli Venezia Giulia, realtà da circa 20.000 volontari, ma serpeggia in tutto il terzo settore, in difficoltà a trovare nuove leve. La recente rilevazione Istat ha evidenziato negli ultimi 6 anni una perdita di volontari in Italia del 15%. In Friuli Venezia Giulia la situazione appare migliore, ma il trend preoccupa. Solo il mondo delle proloco, spiega il presidente del comitato Walter Pezzarini, sta facendo i conti con circa il 10% in meno di volontari. Il calo è trasversale, riguarda tutti tutte le età e a cause diverse, che vengono da lontano. La demografia, con sempre più anziani e meno giovani, non aiuta. La pandemia ha influito molto e ha reso tutti più soli, sottolinea ancora Pezzarini, ma si riscontra anche una crisi di valori e la paura delle responsabilità a impegnarsi in maniera continua nell'associazionismo, aggiunge. Si preferisce dare la disponibilità per impegni a spot. La carenza obbliga a rivedere le attività e a impegnare su più fronti i volontari disponibili. Oggi un volontario vale per tre, rimarca il segretario delle Proloco regionali Marco Specia, che porta l'esempio di persone che in contemporanea si impegnano in sagre, negli alpini, donano sangue e fanno parte della banda di paese. A patire le difficoltà maggiori sono le piccole realtà, senza una rete di riferimento alle spalle, che faticano anche a gestire le nuove disposizioni burocratiche introdotte dalla riforma del terzo settore, come nel caso della parrocchia di Santo Stefano di Vermegliano a Ronchi dei Legionari, che proprio in queste ore sui social ha lanciato un appello per cercare volontari per la sagra locale in programma a giugno, ma sono tanti gli appelli come questo. Attivo da 4 anni negli uffici del Comitato delle Proloco a Villa Manin, lo sportello SOS Eventi supporta su questo fronte tutte le realtà dell'associazionismo regionale e aiuta la tenuta del sistema. Di fronte ai cambiamenti in atto, fondamentale però per Pezzarini resta fare rete. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Il CRO di Aviano si conferma Comprehensive Cancer Center, centro oncologico integrato. Il riconoscimento, che arriva al termine di una procedura di accreditamento e verifica molto selettiva e condotta da esperti internazionali, è stato nuovamente assegnato all'istituto a carattere scientifico avianese dall'organizzazione che dal 1979 raggruppa i più importanti centri di ricerca oncologica europei e non solo. Particolarmente apprezzati sono stati gruppi multidisciplinari per la discussione dei casi clinici, le attività inerenti l'informatizzazione dei percorsi di cura e la nuova cartella oncologica elettronica. La cerimonia ufficiale di consegna degli attestati si terrà il 16 giugno a Parigi nel prestigioso Istituto Curie. Il CRO è inserito in questa rete internazionale fin dal 2015 ed è l'unico centro in Friuli Venezia Giulia e uno dei 12 in Italia accreditato come Comprehensive Cancer Center. Questo riconoscimento premia gli istituti che possiedono un carattere fortemente innovativo, un approccio multidisciplinare all'attività clinica, alla ricerca di base e traslazionale e all'oncologia molecolare, ma anche attenzione al coinvolgimento dei pazienti nel percorso di cura. È stata lanciata questa mattina a Trieste la nuova campagna di comunicazione Lasciti Solidali, presentata anche la guida pratica che spiega cosa sono i testamenti in favore di enti no profit e le modalità per sottoscriverli, redatto in collaborazione con il Consiglio Notarile di Trieste. Obiettivo della campagna è diffondere e sensibilizzare la cittadinanza su un tema tanto delicato quanto importante come quello dei lasciti solidali, promossa da ABC, Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo, che rappresentano una scelta preziosa per il futuro dei piccoli pazienti e a cui ciascuno, anche con un piccolo contributo a un'organizzazione non profit come appunto ABC, può aiutare a realizzare. Si diffonde in regione la coltivazione degli ulivi e la produzione di olio di alta qualità. Ne abbiamo parlato questa mattina, buongiorno regione, con Natascia Riggi, tecnico della DOP Tergeste, il consorzio che riunisce i produttori dell'area triestina. Ne produciamo solo 40 tonnellate, meno dello 0,1% di quello prodotto in Italia, ma i quantitativi sono in crescita e la qualità eccellente. L'olio in Friuli Venezia Giulia è di nicchia, la sua produzione è legata ovviamente agli ulivi. Se ne parlerà a Olio e Dintorni, manifestazione dedicata all'extravergine regionale che si terrà nomen omen a Oleis di Manzano questo weekend. Tante aziende vitivinicole della regione stanno diversificando, iniziando a produrne in piccoli frantoi. Ma di che qualità parliamo? Natascia Riggi, tecnica DOP. Noi produciamo oli monovarietali, quindi di un'unica cultivar o blend di diverse cultivar. Comunque, in entrambi i casi, abbiamo percentuali elevate di bianchera, che è la nostra cultivar principe e quella che si adatta meglio al nostro territorio. L'olio, purtroppo, della bianchera è un olio caratteristico con un'intensità al palato, all'olfatto molto intensa, ha questo caratteristico sapore molto amaro, molto piccante. Il cambiamento climatico con meno gelate e temperature più miti potrebbero favorire l'ulivocoltura, ma servirebbero investimenti. Andrea Saula, TGR Friuli Venezia Giulia. Si chiama Tewes, è un grande avvoltoio monaco nato in Spagna nel 2020, l'ha recuperato e quindi trasferito in Bulgaria, dove era stato liberato il 7 giugno dello scorso anno. È stato appena avvistato nei cieli della riserva naturale del lago di Cornino in Friuli. L'esemplare era rimasto nell'area in cui era stato reintrodotto in natura fino a questa primavera, quando ha iniziato a compiere lunghi spostamenti spingendosi fino in Ucraina, per poi seguire rilievi dinarici fino alla Croazia. Da lì infine ha preso la direzione del Friuli. Tewes ha comunque ripercorso un'importante storica rotta che connette le Alpi ai Balcani, seguita dai grifoni della riserva di Cornino, per andare a trascorrere l'inverno al sud e dagli avvoltoi dei Balcani per passare l'estate sulle Alpi. Spostamenti, spiega il direttore scientifico della riserva Fulvio Genero, che hanno come punto di riferimento proprio la nostra riserva naturale, che sta registrando una crescita degli arrivi di specie rare di grande interesse. Grazie a una radio posizionata sul dorso di Tewes saremo in grado di seguire i suoi futuri spostamenti. Vedremo se proseguirà il suo viaggio vagando per l'Europa o se al contrario si fermerà almeno per qualche tempo nella zona della riserva, ha detto il direttore scientifico Genero, come è già successo più volte in passato con vari esemplari. Guarda al futuro e a Go 2025, il piccolo opera festival che si svolgerà tra il Collio Berda e il Goriziano tra il 21 giugno e il 16 luglio, con ben 16 appuntamenti tra musica lirica e cameristica, ospitati nei parchi, nelle dimore storiche, nei castelli più belli della zona. A svelarci le novità della 16ª edizione appena presentata, il direttore artistico Gabriele Ribis. La nuova edizione del Picco Opera Festival guarderà sempre di più al futuro e proporrà tra le tre produzioni d'opera un'opera nuova su commissione per raccontare Gorizia e la storia del suo confine. Che cosa il confine ha significato nella storia di Gorizia. Per questo è stata commissionata una nuova opera a due giovani compositori under 35, una compositrice italiana ed un compositore sloveno. Questa opera andrà in scena nel mese di settembre, mentre nel cartellone dal 21 giugno al 16 luglio ci saranno La Sonnambula di Bellini, dedicata al centenario di Maria Callas, e l'opera L'ammalato immaginario di Leonardo Vinci, che ricorda i 350 anni della morte di Molière. Oltre alle opere, molti concerti, la Verde Musica per raccontare in musica i parchi e giardini storici della regione, i percorsi musicali per scoprire in musica le bellezze del paesaggio del Collio e del Berda, e Stelle in Castello per presentare i grandi artisti di domani. Tante le novità di questa edizione. Sì, sono parecchie, sono soprattutto legate al percorso verso Gorizia 2025, assieme al Centro Culturale Bratusch, al Centro di Studi alla Scuola di Musica Comel di Gorizia, all'Associazione Nova di Nova Gorizia e la Glasbenasciola di Nova Gorizia, è stata formata la Go Borderless Orchestra, che è un campus orchestrale, un esperimento di inclusione musicale, lo chiamerei, dove artisti italiani e sloveni suonano assieme, quindi la musica come punto di incontro e per fare arte, per conoscersi e per condividere assieme la gioia del fare musica e di fare spettacolo musicale. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina ed Eva Ciucchi. In regia, per la parte tecnica, Viola Romanese. Ha collaborato in redazione Cristina Polselli. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.